Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali e i mensili italiani e stranieri. Vi segnaliamo, cerchiamo di segnalarvi qualcosa di interessante da leggere. Questa puntata in realtà temo sarà quasi monografica, perché incombe su di noi la festa dell'Unità d'Italia, giovedì 17 marzo, i 150 anni dell'Unità. Una festa che un po' tutti i settimanali e anche i mensili cercano di segnalare, di ricordare, di trovare qualche chiave di lettura. Ad esempio, su Famiglia Cristiana l'editoriale è proprio dedicato alle queste celebrazioni, è intitolato con un auspicio: l'unità dell'Italia oltre le sterili polemiche. È interessante notare che ci ricorda proprio Famiglia Cristiana: ogni anniversario dell'unità è stato segnato da riflessioni preoccupate sul passato e sul futuro. Già nel 1910, scrive Famiglia Cristiana, quindi erano passati 50 anni dall'unità, Giovanni Amendola scriveva: l'Italia come è oggi non ci piace, la nazione è poco più di un mito che tramonta. Quindi forse tutto questo malessere nei confronti delle celebrazioni che abbiamo avvertito in giro in realtà ha radici lontane. Prosegue ancora l'editoriale Famiglia Cristiana: sono passati 100 anni da quell'analisi preoccupata e severa, ma oggi non ne siamo molto lontani. C'è chi invoca un federalismo impastato di egoismo, esattamente il contrario del federalismo nazionale solidale nato con l'unità nelle riflessioni di Cattaneo, Gioberti e Rosmini. C'è chi dimentica, dice sempre Famiglia Cristiana, che il risorgimento italiano non è stato un lampo che ha illuminato la penisola, ma un percorso lungo, giunto a compimento in realtà solo con la Costituzione repubblicana, la vera carta dell'unità d'Italia. C'è anche poi su questo numero di Famiglia Cristiana un'intervista all'ex presidente Carlo Azeglio Ciampi. Quindi celebrare l'unità, è la conclusione di Famiglia Cristiana, non vuol dire riproporre il mito del risorgimento ottocentesco, ma rileggere con pazienza e pacatezza la storia, lontani da favole e leggende. Quello che abbiamo davanti agli occhi, è la domanda conclusiva, è davvero lo Stato che avremmo tutti voluto? La responsabilità della sua classe politica è davvero quella nata dall'unità, rafforzata dalla resistenza, consolidata dalla Costituzione? C'è materia di dibattito e confronto per tutti in vista del bene comune. Il tema, mi rendo conto, non è di quelli leggeri, allora proviamo ad alleggerirlo un attimo. Ricordavo lo stesso editoriale di Famiglia Cristiana che già al cinquantenario dell'unità c'erano delle perplessità, dei dubbi sul come stava uscendo un po' questa nazione, con qual era il suo stato di salute, qual era anche il suo stato di coesione. Nella rivista, nel mensile dei gesuiti che si chiama Popoli, un mensile che trovate in edicola o su internet www.popoli.info, c'è un contributo più divertente e divertito di Giacomo Poretti. Giacomo Poretti è appunto il Giacomo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che è proprio dedicato a questa estrema litigiosità che noi italiani sembriamo avere, specialmente sulle questioni unitarie. L'articolo si chiama Una Repubblica fondata sul litigio, ed è accompagnato da una testatina molto significativa, Scusate il disagio. Scrive così Giacomo Poretti: in questo mese di marzo dobbiamo in realtà, ma lui appunto prende un po' le distanze, dovremmo festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Come potete immaginare, il 150ennale arriva solo una volta nella vita. Se te lo lasci scappare, ti tocca reincarnarti in un avatar e sperare di essere ancora qui quando festeggeremo il 300ennale dell'unità. Purtroppo le autorità del nostro paese sono riuscite a litigare anche su questo anniversario, dividendosi sul fare festa o no, rimanere a casa dal lavoro, dalla scuola, eccetera. Ma litigare, continua Poretti, è una modalità espressiva che da quando siamo uniti ci riesce particolarmente bene. È come se noi italiani, nel momento in cui arriviamo a concretizzare un progetto realizzato con altre persone, provassimo l'impulso di litigare immediatamente. E porta degli esempi, dice: se per esempio decidiamo di creare un nuovo partito, perché quelli attuali ci fanno schifo, state pur sicuri che all'indomani della convention di presentazione il cassiere avrà già litigato con il segretario, perché lo accuserà di essersi fatto intestare la sede del partito, i computer del partito, la segretaria del partito. La settimana successiva nasceranno due correnti, una favorevole all'uso obbligatorio dei mumbuti in città dopo una nevicata, l'altra invece per il sostegno delle minoranze etniche quali gli elfi e le popolazioni del fondo Toce. Ma anche all'interno delle correnti, proseguo in questa fantacronaca Poretti, anche all'interno delle correnti si creeranno le dovute e legittime differenziazioni. Qualcuno preferirà i mumbut con il pelo, altri quelli in Gore-Tex, qualcun altro preferirà invece stare in casa quando nevica, farà di tutto per vincere le primarie contro il candidato che propugna invece la nazionalizzazione di Cortina e di tutti gli impianti sciistici. Prosegue poi la cronaca di Poretti, ve ne salto qualche brano per tornare al tema dell'Unità d'Italia. Dice: litigare per noi italiani non è una questione di razze o di appartenenze geografiche. Noi litighiamo perché tutti ci stanno sulle balle. Il capo del governo, il capo dell'opposizione, l'amministratore di condominio, l'inquilino del sesto, del quinto, del quarto, del secondo, del primo piano, in realtà il terzo piano è sfitto, e poi il panettiere, l'idraulico, la professoressa di matematica di nostro figlio e così via. È per via della nostra litigiosità, scrive e conclude Poretti, che l'inno nazionale è poco comprensibile. Il primo testo è stato scritto da una commissione inni, filastrocche e feste rionali, poi ha subito una prima modifica, poi altre modifiche dopo snervanti trattative con il capo della commissione. Ecco, questa è la divertita fantacronaca di Poretti, che però in realtà, come abbiamo visto, coglie un aspetto della litigiosità, della voglia di distinguo che sempre caratterizza noi italiani, che spesso caratterizza noi italiani e che naturalmente non poteva non emergere anche in occasione delle celebrazioni per il 150enario. Ancora sull'Unità d'Italia, ma andando un po' a spigolare per altri argomenti, per altre testate. Vanity Fair, dall'Everest allo spazio il tricolore è sempre più in alto, un articolo di Simona Verrazzo in cui ci spiegano che cosa succederà giovedì prossimo per le celebrazioni. Ci sarà il tricolore appunto che sventolerà ovunque e poi volerà anche su uno shuttle, e Simona Verrazzo ci informa anche di alcuni dati storici sulla nostra bandiera nazionale. Sembra facile, dice, ma non lo è. I tre colori verde, bianco e rosso a tre bande verticali di uguali dimensioni, questo è l'articolo 12 della Costituzione che definisce la bandiera, sono stabiliti secondo il codice Pantone, che è il sistema che classifica i colori per la stampa. A volte cambiano, infatti possono andare dal verde golf, bianco acceso, rosso pomodoro del 2002, oggi verde felce, bianco brillante, rosso scarlatto, quindi sono delle sfumature di colore per il tricolore, scusate il gioco di parole. Il primo a scegliere questi colori fu il patriota Luigi Zamboni nel 1794. A scuola magari ci hanno detto che c'era un'ispirazione ai prati italici, alla neve dei monti, al rosso del sangue dei patrioti, sarebbe però poco più di una leggenda. Più semplicemente l'omaggio era diretto al tricolore rivoluzionario dei francesi, che simboleggiava appunto giustizia, uguaglianza e fratellanza, ma il blu era stato sostituito dal verde. Il verde veniva in realtà dalle uniformi della Guardia Civica milanese. È importante ricordare e sapere che la bandiera non si può offendere. Fino al 2006 per il reato di vilipendio alla bandiera c'era anche la reclusione, 3 anni di reclusione. Il reato esiste ancora, però non c'è più la reclusione, c'è una multa che può andare dai 1.000 ai 10.000 euro. Su Vanity Fair trovate anche dove è possibile ordinare una bandiera identica a quella che viene sventolata al Senato, alla Camera dei Deputati o al Consiglio dei Ministri. Se ne occupa la manifattura italiana Bandiere di Settebagni, vende anche via web, ci dice Vanity Fair. E infine ad aprile l'astronauta Roberto Vittori porterà il tricolore sullo shuttle della NASA. Il tricolore più a sud d'Italia è quello che sventola a Lampedusa, quello che sventola più in alto è quello a Sestriere. Nel mondo complessivamente il tricolore che si trova più a est è all'ambasciata di Wellington in Nuova Zelanda, e quello più a ovest sta nel consolato di Honolulu alle Hawaii. Nel 2008 infine il tricolore è tornato sull'Everest, dove l'Italia ha installato la stazione meteorologica più alta del mondo. E allora, queste le considerazioni sul tricolore. Come avete visto, un po' di mescolanza tra gli aspetti più seri e gli aspetti meno seri. Ci sono altre considerazioni sull'essere italiani, per le quali vi do appuntamento alla seconda parte. Ad esempio, tutto l'aspetto degli italiani che sono fratellastri d'Italia, come li definisce Maurizio Ambrosini, cioè sono i figli di immigrati che sono stabilmente residenti nel nostro paese, per i quali acquisire la cittadinanza italiana è ancora un percorso ad ostacoli. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vi stavo parlando dell'Unità d'Italia, unità che andremo a celebrare nel suo 150° anniversario giovedì 17 marzo. Vi stavo parlando però di un aspetto meno consueto, quello appunto, vi dicevo, dei fratellastri d'Italia. Ho trovato questo contributo di Maurizio Ambrosini sul Popoli, la rivista, il mensile dei gesuiti, che dirige appunto la rivista Mondi Migranti, e ha dato a Popoli questo contributo per segnalare la condizione degli figli di immigrati stabilmente residenti nel nostro paese. Spiega: per l'esattezza sono 933.000 minori a fine del 2009, questo secondo il dossier statistico Caritas Migrantes, più un certo numero di ragazzi e ragazze giunti ormai alla maggiore età, spesso attivi appunto nelle varie reti di iniziativa promosse per i giovani e dai giovani. Dopo che la Grecia, spiega Maurizio Ambrosini, circa un anno fa ha modificato la sua normativa sull'acquisizione della cittadinanza, l'ha modificata in senso più liberale, l'Italia è rimasta il paese con la legislazione più restrittiva tra quelli della vecchia Europa a 15 paesi. Per diventare italiano, un figlio di genitori immigrati non comunitari deve essere nato in Italia, risiedere ininterrottamente sul territorio fino alla maggiore età, cioè non può uscire dal nostro paese per più di 3 mesi. Entro il 19° anno di età può presentare la domanda di naturalizzazione. Se è arrivato dopo la nascita, oppure se è stato riportato nella sua madrepatria virtuale, in realtà la madrepatria dei genitori, per magari essere accudito dai nonni durante l'infanzia, allora deve seguire la trafila degli adulti. 10 anni di residenza, un'attesa che dura per altri anni, una risposta dell'autorità discrezionale ma spesso negativa. Oppure deve sposare un italiano o un'italiana, che rimane la via più facile per ottenere questa sospirata cittadinanza. In generale, argomenta Ambrosini, molti paesi occidentali prevedono la cittadinanza alla nascita oppure in maniera automatica, Stati Uniti, Canada, o almeno quando i genitori sono legalmente residenti da un certo numero di anni, 8 per esempio nel caso tedesco. Garantiscono inoltre percorsi facilitati di accesso per chi, pur non essendo nato sul territorio, vi ha frequentato un certo numero di anni di scuola. La conclusione di Ambrosini per questo nucleo di persone, che ripetiamo risultano essere 933.000 minori, quindi non esattamente un numero trascurabile: festeggiare l'unità nazionale, scrive, dovrebbe essere l'occasione per declinare al futuro l'italianità, aprendo gli occhi sul fatto ineludibile per cui gli italiani di domani, di fatto, potranno essere anche di colore, musulmani, con gli occhi a mandorla. Uno sguardo rivolto all'indietro non prepara la strada a una società più coesa e armoniosa. E al futuro ha provato a guardare anche Wired, lo segnalavamo già nelle puntate scorse. Wired di questo mese ha questa copertina, tra l'altro con Roberto Saviano, il titolo "Qui si rifà l'Italia". 150 anni dopo è appunto l'auspicio di Wired: cerchiamo i nuovi 1000, innovatori, scienziati, ricercatori e sognatori per unire di nuovo il paese e trasformarlo in un posto dove il migliore arriva primo. Questo su Wired, che, come vi dicevamo già nelle puntate delle settimane scorse, ha anche tutta una serie di dati statistici e di proiezioni su come potrà essere il nostro paese di qui a 10 anni, quindi l'Italia che avremo nel 2020. Ad esempio, nelle varie tabelle vediamo che le città che dovrebbero crescere di più nel decennio sono quelle di Verona, di Bologna, di Milano. Verona appunto dell'11%, Bologna Bologna dell'8,1%, Milano del 7,5%. Poi dati invece più preoccupanti, continuiamo a urbanizzare troppo suolo, 45 ettari di suolo al giorno. Se continuiamo con questo ritmo, Roma più Milano più Firenze più Bolzano praticamente risultano 164.000 ettari di consumo del suolo in un decennio. Se invece riusciamo a dimezzare questo consumo, ci fermeremmo a 114.000 ettari. Questi sono due dei dati, dei molti dati che trovate, ripeto, su Wired di questo mese, dedicato a Qui si rifà l'Italia. Veniamo a un aspetto più leggero, anche se sempre di Italia e di italiani parliamo. Parliamo in realtà di italiano, perché su Panorama di questa settimana trovate un contributo di Paolo Villaggio intitolato «Noi che ormai parliamo italiese». Italiese naturalmente è un neologismo coniato da italiano e inglese. Dai salotti in TV fino agli uffici pubblici, il bell'idioma che fu di Dante è ogni giorno strapazzato, speriamo di non essere iscritti nella categoria, con effetto davvero fantozziano. E spiega ad esempio che c'è l'italiano maltrattato spesso dagli intellettuali, magari dagli intellettuali di sinistra, scrive proprio Paolo Villaggio, per spaventare le masse che parlavano invece un italiano volgare. C'è il sinistrese radical chic, che però si continua a usare spesso nei dibattiti televisivi. Poi c'è l'italiano burocratico, che dice è una lingua di una casta inferiore, perché immaginiamo una denuncia di uno smarrimento patente a un commissariato di polizia. Scrive Villaggio: entri, vuoi solo dire ho smarrito la patente, nome, cognome, firma. Ecco uno spettacolo avvincente: un appuntato si siede a una rudimentale macchina da scrivere, si vede che è spaventato, suda, respira profondamente, si allarga le braccia, si butta sulla tastiera e comincia con questo tipo di resoconto: essendo convenuto davanti a me medesimo, il dichiarante stesso si dichiara, eccetera eccetera, e comincia appunto questo resoconto particolarmente burocratico. Nel suo resoconto fantastico, Paolo Villaggio poi arriva a immaginare che, essendo richiesto di qualche sospetto che possa avergli sottratto la patente, appunto il dichiarante stesso medesimo, così risulterebbe in questo verbale, dichiara che presumibilmente l'errore non è mio di pronuncia, è proprio scritto così per rimarcare gli errori di stampa. Presumibilmente lui stesso medesimo avrebbe potuto sottrarsi fraudolatamente, cioè fraudolentemente, la stessa medesima patente oggetto di codesta denuncia, eccetera eccetera. Trovate tutto questo su Panorama. Negli ultimi anni poi, chiude Paolo Villaggio, siamo stati invasi da una neolingua. La neolingua dei computer, degli hard disk, dei software, dei backup, dei print, degli scanner, del wifi, del wireless, della DSL, dell'Ethernet e così via. E poi c'è il linguaggio dell'aviazione civile, per cui con un atteggiamento di servilismo della compagnia di bandiera nei riguardi del mondo anglosassone. E nota però Villaggio: prima ad esempio di atterrare a Olbia, le hostess, invece di fare un annuncio comprensibile in dialetto sardo, parlano perfidamente in inglese, però resta loro al fondo sempre un vago accento sardo. E allora, questa è l'ultima segnalazione di lettura, una lettura più leggera appunto da Paolo Villaggio. Io vi voglio ancora dire che dal 15 marzo, cioè da martedì, saremo in edicola invece con un prodotto di servizio che spero possa piacervi, è dedicato a appunto alla gestione di Colf e Badanti. Colf e Badanti è un manuale che in più avrà anche un software per calcolare e stampare la busta paga. Serve un po' a gestire i rapporti all'interno della casa con le collaboratrici domestiche. E sempre da martedì presenteremo anche un volume di una delle passioni più recenti degli italiani, Stregati dalla corsa. È un libro del collega Marco Lo Conte, 9 ritratti di manager runner che correndo hanno accelerato nella professione e nella vita. Con queste due segnalazioni si conclude la nostra puntata di oggi. Grazie a Filippo Aureggi anche questa mattina in regia, grazie come sempre ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Magazine 24 vi augura una buona domenica.